Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento per questa settimana con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto al presidente Carlo Garofolini. Sì, ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, oggi andiamo a toccare un argomento che è assolutamente di questi giorni e di cui sentiamo parlare quotidianamente i giornali e non solo, la vicenda del TFR in busta paga. È una cosa che poi porterebbe un effettivo vantaggio ai lavoratori o magari sotto a questa vicenda ci sono degli aspetti che vanno valutati? Allora, come hai detto tu Francesco, è una vicenda di grande attualità, soprattutto di forte interesse, perché quando si tratta di avere qualche soldino in più, certamente molte persone rizzano le antenne e certamente nessuno oggi li disdegnerebbe. Certo è che se approfondiamo un attimino la questione ci rendiamo conto come questi soldi alla fine rischiamo di riceverli con una mano e restituirli con un braccio, perché a conti fatti c'è una buona categoria, una grande fascia di persone, quelle che io dico prendono meno di 24.000 euro, che rischierebbero per ricevere qualcosina in più dare molto indietro. E se vuoi possiamo fare anche qualche ragionamento proprio per essere più chiari nell'idea e spiegare agli ascoltatori esattamente di quali sono i rischi e di cosa si tratta. Eh no, dobbiamo assolutamente dirli, perché così uno ha un'idea chiara di quello che potrebbe accadere. Innanzitutto noi dobbiamo partire dal presupposto di ragionare sugli 80 euro che Renzi ripropone a dato quest'anno, proprio in virtù di coloro che prendono 24.000 euro circa, meno di 24.000 euro, perché poi da 24-26.000 questi 80 euro si esauriscono. C'è da dire che per chi prende circa questo reddito lordo significa in netto in busta paga circa 1.200 euro all'anno, che qua stanno facendo un ragionamento se diluirli ogni mese o da anticiparli a febbraio. Certo è che il rischio per chi appunto è sulla soglia degli 80 euro, che prendere una mensilità in più rischia poi che per prendere 100 euro dalla liquidazione ne debba restituire 80, perché supera lo scaglione dei 24.000 e quindi certamente non ne beneficerebbero affatto questa categoria di persone. Poi ci sono tutte quelle categorie invece di persone che invece per effetto dei redditi minimi sotto i 10-12.000 euro beneficiano di tutta una serie di riduzioni ISEE che permettono loro di pagare meno la scuola e meno i buoni mensa per i ragazzi che frequentano appunto gli istituti scolastici, e danno anche tutta una serie di meccanismi di detrazione rispetto a quelli che sono i loro redditi, proprio perché è in uno stato di indigenza. Certamente con questi, non dico 1.200 euro, ma chi prende 10.000 euro lordi, potrebbero essere 600 euro all'anno, rischierebbe anche per un euro che superano questa cifra dover pagare molto molto di più rispetto a quella che è una cifra che il governo potrebbe dare, che alla fine sono i nostri soldi, in quanto anche superare per esempio un euro a Milano per esempio di 12.500 euro significa passare a una retta di asilo da 103 euro a 232, per esempio a Bari per chi percepisce uno stipendio di circa 549 euro al mese rischia addirittura di pagare la TASI. Molti altri potrebbero rientrare in questo ragionamento. Quello che poi è più pericoloso tener conto è come la liquidazione oggi TFR ha una tassazione di circa il 21-23% e messo in busta paga rischierebbe di avere un salasso molto più corposo rispetto a quello che oggi è un minimo, e per cui a conti fatti andremo per un motivo o per un altro a restituire quasi interamente questa cifra. Ecco, forse se si mettesse il TFR in busta paga bisognerebbe che entrasse in una voce diversa da quella dello stipendio. In qualche modo bisognerebbe trovare un sistema, perché creerebbe disagio probabilmente e non sarebbe forse un vantaggio per molti. Il pensiero che mi viene è che io personalmente lo lascerei lì. Ma vedi, oggi come oggi non c'è nulla che va a dare questo tipo di garanzia, come anche noi pensiamo che se si voglia dare ai lavoratori deve essere sgravato o non computato su quello che è un reddito, perché non si può avere 1.000 euro e restituirne 1.500 o avere 85 euro al mese e restituire magari 80 euro che Renzi ha dato o altre cose. Certo è che se si decida di fare, una volta trovato il modo, bisogna il modo di come darlo, quindi come salvaguardarlo e come anche tenere separato da quello che sono gli indicatori ISEE che permette a molte famiglie quindi di beneficiare dell'agevolazione che abbiamo parlato poco fa, valutare se vale la pena richiederlo, perché poi a conti fatti sappiamo che per chi ha la fortuna di avere ancora una liquidazione, un lavoro dipendente, certo è sempre stato un piccolo salvadanaio che alla fine i nonni hanno usato per curarsi, ma anche per aiutare i nipoti o i figli ad acquistare casa o nei momenti di difficoltà sostenere le famiglie. Per cui secondo me è un ragionamento molto molto complesso, oltre che non tener conto che le aziende da accanto loro sostengono che sono soldi loro, che comunque qua teniamo a precisare sono i soldi dei lavoratori. È proprio di ieri sera la notizia della nuova manovra del governo che prevede l'operazione proprio sul TFR, che potrà essere deciso dal lavoratore stesso. Quindi importante capire bene quali sono i risvolti di questa operazione del TFR, magari ne torneremo a parlare. Grazie a Carlo Garofolini. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.